versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 3 di giugno alle 16.35, appena scoccate qui in diretta agli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta. Il tema del giorno, per consentirvi di chiamarci all'800 24 00 24 o di mandare messaggi 349 238 6666, sapete che cerco sempre di leggerne un qualche numero almeno. Il tema è questo, semplice e netto: lo sciopero che i sindacati in RAI hanno indetto per l'11 di giugno, sciopero di protesta contro il taglio di 150 milioni disposto dal governo nei confronti della RAI sul bilancio di quest'anno. Nei giorni la polemica è esplosa. Nel frattempo, di fronte alla durezza, all'energia con cui il Premier ha ribadito di fronte alle proteste, che lui va avanti per la sua strada e che anzi gli stavano facendo un piacere in Rai, se glielo facevano questo sciopero prima del voto diceva avrei guadagnato altri punti, ecco che nei giorni in realtà il fronte dello sciopero è iniziato un po' a squagliarsi. Dicevano che il direttore generale Gubitosi fosse il primo a sostenere la tesi dell'incostituzionalità del taglio, ma in realtà rilascia poi un'intervista nel quale dice no, bisogna affrontare tutti i problemi, la RAI non si può sottrarre, perché questo è il punto sollevato dal Premier, non è che la RAI sta in una torre burna in un paese in cui non c'è neanche più la cinghia da tirare, non è che la RAI si può sottrarre e dire chi mi tocca fa un servizio a Berlusconi, perché poi questa è la tesi centrale di chi protesta in RAI, soprattutto perché il bilancio del cosiddetto, dico io, servizio pubblico, un bilancio con perdite accumulate negli anni di molte centinaia di milioni, quest'anno un utile operativo di 5 milioni, ma non era anno di grandi eventi sportivi, e soprattutto un'azienda che non pubblica per esempio i compensi dei dirigenti e delle migliaia di collaboratori perché si rifugia dietro la privacy, un'azienda che ha più dipendenti sommati di La 7, Sky e Mediaset, un'azienda di cui avete letto in questi giorni le mille polemiche che si sono riproposte sulle migliaia e migliaia di metri quadrati di sedi locali e regionali da Sassari a Cagliari a Firenze a Bologna che producono praticamente quasi niente, cioè un'azienda nella quale il peso dei partiti per tanti anni, il peso delle cordate politiche in tantissimi anni ha accumulato substrati successivi di concrezioni di non solo giornalisti ma dipendenti e così via, poi negli ultimi anni ha accumulato, e non dimentichiamocene per favore, migliaia e migliaia di precari da quando le assunzioni poi facili sono finite, ed è un'azienda sulla quale poi grava questo punto interrogativo, perché il servizio pubblico, ma che cos'è oramai questo servizio pubblico nel nostro paese? Allora diteci cosa ne pensate, e per capire meglio la RAI, dico solo i fatti della mattina ancora, il garante per l'autorità dello sciopero ha dichiarato illegittimo l'eventuale sciopero perché manca il numero di giorni minimo tra una sospensione dal lavoro che era già stata proclamata da un sindacato di base in RAI e questo altro nuovo sciopero, quindi secondo la regolamentazione dei termini precedenti a uno sciopero per la loro proclamazione sarebbe illegittimo, ma nel frattempo la Camusso, la segretaria della CGIL, diceva, lancia in resta, no, lo sciopero è sacrosanto, è meglio che Renzi si abitui. Angeletti, il sindacato della UIL, diceva è il peggior amministratore per la RAI che si possa immaginare, ma il Presidente del Consiglio non è l'amministratore della RAI. Sapete che anche il presidente Fico della Commissione di Vigilanza, che pure del 5 Stelle, ha dichiarato più volte, anche stamattina qua ai microfoni di Radio 24, che lo sciopero è sacrosanto, che era giusto protestare perché c'è dietro un affare dietro questa richiesta di Renzi. L'affare sarebbe una svendita per 150 milioni di una quota minoritaria di Rai Way, la società che detiene il controllo di 2300 torri, impianti di trasmissione e ripetitori esclusivi della Rai in tutto il territorio nazionale. A dire la verità il governo non è che ha detto dovete cederla, ha detto semplicemente io trattengo 150 milioni del quasi 1,8 miliardi di canone raccolto. Sapete che il canone è una tassa di scopo, è un canone travestito perché è una tassa sugli apparati riceventi e è nella disponibilità quindi del governo. Il governo dice vi do 150 milioni in meno, vedete voi come fare tra tagli di costo e avvio della quotazione di Rai Way. Allora, questo è lo sfondo. Nel frattempo, però, un giornalista che professionalmente da molti anni, con grande competenza ed equilibrio anche, devo dire la verità, segue le vicende della RAI non solo dal punto di vista societario, ma soprattutto per la qualità del prodotto, cioè per la qualità dell'informazione, della fiction che il cosiddetto servizio pubblico ci offre e che si fa un punto di gloria, forse vana gloria, di dire che è l'eccellenza assoluta che corrisponde col servizio pubblico. Per me il servizio pubblico è un'altra cosa. L'ospite, che ringrazio di essere qui con noi, è giornalista del Corriere della Sera, Paolo Conti. Grazie Paolo. Grazie a voi, grazie a te per la chiamata e grazie per quello che hai detto. Io provo da 22 anni a raccontare. Figurati. Domanda, tu sei rimasto sorpreso da questo sciopero che confina tra l'incredibile e il regalo a Renzi? Guarda, non completamente, perché si percepiva nell'aria che ci sarebbe stato un contraccolpo. Quello che ho raccontato e mi è piaciuto raccontare, perché noi viviamo anche del piacere di tirar fuori delle notizie, è il fatto che questo sciopero non solo non ha raccolto adesioni reali all'interno della base, ma ha provocato anche degli smottamenti. Il più interessante di tutti è questa raccolta di firme che c'è stata al TG3 per chiedere una discussione assembleare su questo sciopero. Quindi devo dirti, alla tua domanda tu hai fatto un'esposizione perfetta di tutti i problemi, e la questione è che una parte di questo popolo Rai avverte che la mano politica è assolutamente irritata da questo sciopero, e come sempre succede alla Rai c'è un contraccolpo a favore della realtà del governo, per cui anche questo modo di dissociarsi risente di tutta la partitocrazia che c'è all'interno della RAI, perché mai nella vita ci sarebbe stata un dissenso nei confronti del sindacato se dall'altra parte non ci fosse stata una sponda politica. Qui siamo di fronte a Matteo Renzi che dice alla RAI questo sciopero è assurdo, come lo è anche dal mio punto di vista, che conta pochissimo essendo quello di un giornalista, ma credo che mostrare il volto di una RAI come cittadella assediata, unica isola che si ribella a tutto quello che sta avvenendo, se sia un suicidio o un karakiri. Lo hanno capito i colleghi del TG3, lo hanno capito anche molti altri esponenti della RAI, tra cui il direttore del TG1, il TG2 Marcello Masi, anche Massimo Giletti, che tentano di spiegare al sindacato che questo modo antico di protestare con uno sciopero è una forma di autolesionismo, perché non esiste la possibilità di realizzare un luogo dove non si possa fare un taglio, soprattutto quando parliamo di aziende dello Stato. Senti, io devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso in realtà dalla natura un po' freddo del taglio della trattenuta dei 150 milioni sul canone. Perché? Perché tre anni fa la Leopolda, che oramai è diventata famosissima, cioè il meeting annuale dei renziani, il problema Rai fu affrontato e la proposta, le 100 idee che c'erano a quell'edizione, due di queste idee erano relative al fatto che la Rai andava in parte privatizzata, cioè andava separata la parte con il canone e il resto ceduto, la parte con pubblicità. Questa mi sembra un'idea, devo dire la verità, a me chiara, netta, perché è un'idea di sistema. Invece, negli giorni, questi ultimi tre giorni immediatamente successivi alla programmazione dello sciopero, al suo ribadire con energia che lui andrà avanti, sono iniziate a uscire delle interpretazioni per cui intorno a Renzi, al Presidente del Consiglio, ad ambiti del PD, ai loro vicini, insomma, si stia riflettendo su una riforma, il numero di testate RAI e così via. Ti faccio una domanda: da quello che sai molto più di me dentro l'azienda, intorno all'azienda, non c'è il rischio che invece di andare a un rinnovo della concessione RAI dal 2016, ma il governo lo vuole anticipare al 2015, come occasione per una riforma di sistema? Ridefiniamo che cos'è questo servizio pubblico, perché il canone, che senso ha che ci sia canone e pubblicità? Non è che poi si finisce invece che la politica ci rimette becco e con la scusa si fa bella con un po' di tagli e poi ristabilisce a tavolino quante testate, chi sono i direttori, perché l'aria sembra quasi un po' quella, o no? Ma guarda, io ho questa percezione, perché tu sai che ogni ipotesi di privatizzazione della RAI è comunque un'alchimia complicatissima, perché bisognerebbe immaginare addirittura una cessione parziale di tutte le sedi regionali e poi la questione di Sacciarubra, l'idea di privatizzare questo enorme bestione che è la RAI è un'operazione, anche perché in questo momento il mercato è quello che è, certo. Immaginiamo la difficoltà di trovare un interlocutore. Io credo sinceramente che Renzi abbia il merito di aver messo la RAI in uno spazio politico diverso da quello che hanno fatto tutti gli altri. Detto questo, anch'io ho l'impressione che ci sia sempre da parte del potere, da chi gestisce il potere in quel momento, di immaginare una RAI che gli somigli. L'abbiamo visto con tutto il ventennio berlusconiano, abbiamo visto questo duopolio assurdo, vecchio, cadente, marcio, che continuava ad agire in nome e per conto di interessi paralleli di RAI e Mediaset per spartirsi la torta pubblicitaria, e quello è stato un modo di immaginare un sistema televisivo a immagine e somiglianza delle esigenze di Berlusconi. Questa è una questione storica sulla quale nessuno può affermare il contrario. Adesso bisogna immaginare una RAI diversa, questo è poco più sicuro. Come sappiamo, i giovani la vedono pochissimo, così come vedono tutte le televisioni generaliste. Ci sono tutte le nuove piattaforme che informano anche senza mediazione giornalistica le nuove generazioni. Bisognerà vedere, immaginarsi una RAI che guarda al futuro. Ecco, questo arroccamento con lo sciopero mostra per ora il volto di una RAI vecchia, abituata agli antichi riti della protesta compatta, del corteo, della manifestazione, cosa che lascia il tempo che trova, anche perché non ci dimentichiamo che una delle crisi forti del sindacato è il fatto che si occupi esclusivamente di chi ha un reddito fisso, sì, appunto, e non di quelli che invece poi non ce l'hanno, sono precari. Allora abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con Paolo Conti a parlare di sciopero RAI. Sciopero RAI. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.47, 37 secondi. Stiamo parlando di RAI, la proposta del governo. Vi tratteniamo 150 milioni dal canone, quasi 1,8 miliardi il canone l'anno. L'insurrezione inizia dalla RAI, lo sciopero l'11, il garante che dice che adesso è illegittimo. La Camusso, CGL e Will con Angeletti che dicono andare avanti, però si sta sciogliendo un po', come ci spiegava Paolo Conti, che con noi del Corriere della Sera da anni segue la RAI, il fronte interno. Resta da capire se poi stiamo andando davvero a mettere le premesse per una riforma sistemica oppure no. Sentiamo un po' alcuni ascoltatori nei loro messaggi come la pensano. Per esempio Marco Tizzi, mi piace molto questa cosa secca di Marco, che ci scrive: il referendum fu chiaro, privatizzare tutto subito, l'alternativa è la chiusura dopo fallimento. Come vedi, la politica ha inventato un'altra strada negli anni e se ne fottono del nostro referendum e di quello che hanno votato gli italiani, caro Marco. Non è l'unico quello sulla RAI, ma è evidente che è così. Oppure Ulisse ci scrive: la RAI deve essere privatizzata, abolito il canone, il servizio pubblico lo può benissimo fare anche il privato, poi la RAI come l'Italia si accorgerà cosa vuol dire stare sul mercato. Altri, Marco che ci scrive da Ferrara: sciopero RAI, lo sciopero è una forma di protesta realizzata attraverso l'interruzione del servizio, ma sono anni secondo me che il servizio pubblico è interrotto, non serve mica uno sciopero per continuare ulteriormente con l'interruzione. Immaginavo che i messaggi fossero soprattutto critica. Il problema, secondo me, è che la polemica, io credo che corra il rischio di allontanarci invece che avvicinarci dal nocciolo della questione. Per esempio, secondo me, la concessione del 2015 bisognerebbe darla con un'asta pubblica, stabilendo prima dei requisiti in che cosa debba consistere davvero il servizio pubblico, nell'informazione, non solo nell'informazione, nell'offerta culturale, però dicendo chiaramente che a quel punto il servizio pubblico si fa non con la commistione di canone e risorse private, e a quel punto consentendo a tutti i players di potersi fare avanti per gestirlo. Certo, l'idea è che si parte dalla definizione di che cosa deve essere un servizio pubblico, però la domanda che faccio a Paolo Conti oggi, nella politica, vedi dei personaggi in tutto lo spettro, ecco, sapendo che abbiamo un enorme conflitto di interesse con la parte berlusconiana, ma anche a sinistra, tu vedi dei personaggi che abbiano Ma come devo dire? Che sappiano abbastanza le televisioni, perché il problema non sono mica solo i numeri e l'equilibrio finanziario, qui però il problema è il decadere della qualità del prodotto, il che spiega poi perché il più delle fiction venga appaltato fuori. Secondo te c'è davvero questa capacità oggi diffusa intorno alla politica? Come tu sai, la crisi della politica sta anche nella scarsa qualità del personale politico, no? Lo vediamo ogni giorno, a parte qualche eccezione, non abbiamo sotto mano dei personaggi che possano dire, ecco, sono l'autorità in materia. Vedo molte idee in circolazione. Dirti che ci possa essere un personaggio di riferimento forte, no, non lo vedo, anche perché poi ovviamente qui dico una banalità, la crisi della politica ha allontanato molte persone autorevoli dal dedicarsi alla politica stessa, e quindi questo comporta una scarsa qualità del personale, o comunque non ci sono delle personalità molto forti. Io credo che Renzi dovrebbe, ieri sera Bersani lo diceva molto bene nella trasmissione di Mirta Merlino, l'errore di Matteo Renzi secondo me non è quello di aver posto la questione della RAI, non è nemmeno il fatto di aver chiesto i 150 milioni di euro alla RAI stessa, non è quello di chiedere insistentemente un cambiamento, è quello di sottrarsi a un tavolo avendo una proposta. Allora, visto e considerato che lui presiede un consiglio di ministri nel quale siede un ministero dell'economia che è l'azionista della RAI, secondo me in un paese normale un azionista arriva al confronto con l'azienda e comunque con gli interlocutori del settore con un'idea forte. Questo sono d'accordo. Con un progetto già concluso che serva ad essere un tavolo di confronto, un punto di riferimento per i sì e per i no. Questo manca da questa interlocuzione, manca un documento intorno al quale si possa lavorare, cosa che per esempio venne fatta ai tempi, in qualche modo D'Alema l'aveva tirato fuori, cioè una rete da vendere, cioè, c'era un discorso poi che naufragò il governo D'Alema, ma qui non vedo un progetto, vedo una voglia di buttar via quello che c'è o comunque di riformarlo, ma non c'è questa idea forte di ricambio, cioè manca un'idea forte come gli 80 euro, manca un'idea forte come, non c'è, ecco, questo non c'è. Sono su questo completamente d'accordo, a parte il fatto che bisognerebbe Ma tu sei ancora convinto che abbia un senso nella società delle informazioni che descrivi prima, con le nuove piattaforme, tutto velocizzato, disintermediato, eccetera, eccetera? Che senso ha, secondo te, Paolo, per te, un'idea residua, qualunque sia secondo te, di servizio pubblico? Guarda, come tu sai, l'Unione Europea sostiene fortissimamente l'idea dei servizi televisivi pubblici nazionali. Questo a tutela, secondo l'Unione Europea stessa, di un'informazione che sia sottratta ovviamente ai giganti dell'economia e alla dittatura in qualche modo di un padrone che ti impone di dire quello che vuole. Forse in questo modo ha un senso, non ha un senso per come è fatto adesso, perché tu sai meglio di me, lavori intorno a questo argomento, la RAI è la figlia della riforma del 75, sì. Quando c'era la DC, il PC e il PSI, è un mondo non solo tramutato, sepolto, che i ragazzi, i nostri figli neanche sanno come funzionasse, eppure noi ci ritroviamo con queste tre reti. Secondo me avrebbe senso e avrà senso un servizio pubblico interamente ridisegnato, probabilmente con una parte assolutamente sostenuta solo dalla pubblicità e una parte solo sostenuta dal canone, anche quello ripensato, e che possa essere finalmente sganciato dai partiti, come affidando finalmente la proprietà della RAI a qualcosa che sia altro rispetto al Ministro dell'Economia e quindi al gioco dei partiti e del potente. Insomma, tu dici qualcosa di simile a ciò che gli alleati imposero in alcuni grandi giornali tedeschi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ebbero il torto di non farlo anche da noi, restituendo le vecchie proprietarie, secondo me, a garanzia del fatto che non tornassero gli imprenditori amici dei nazisti, per cui come alla Frankfurter Allgemeine capita, c'è una fondazione del tutto indipendente anche dalla proprietà che poi sceglie i direttori e interviene viene poi sulle, sulle linee editoriali. Qualcosa di simile significherebbe credere che la politica è capace di autoimmunizzarsi in Italia. Guarda, questo è il mondo dei sogni, però ecco. È chiaro che, ripeto, il servizio pubblico non è un'invenzione italiana, questo è per ricordarlo a tutti. Ed è, però insomma, esiste la BBC ed esiste la RAI, ecco, ci sono due idee un po' diverse. Però sono idee diverse, sono modulazioni diverse. Perché anche perché ti faccio osservare che a quel punto, lo sai meglio di me, ma per chi è in ascolto, a quel punto significa dare al capo azienda poteri veri, come ce l'ha appunto il capo della BBC, mentre qui il direttore generale deve rispondere a un consiglio di amministrazione in cui ogni consigliere risponde a una parte politica e lui ha dei limiti profondissimi. Poi c'è la commissione di vigilanza, cioè i partiti, eccetera eccetera eccetera, queste robe dovrebbero decadere, in altre parole. Completamente, ma ed anche qui, sempre per tornare all'analisi, ha ragione Matteo Renzi quando dice che è assurdo ancora immaginare che il direttore del TG1 sia referente al partito di maggioranza relativa. Questa è una follia, è una stortura assurda. Abbiamo bisogno tutti di un servizio pubblico, ma io immagino esattamente la stessa cosa che fanno i grandi musei, che sono dei servizi pubblici, non è che rispondono a appunto, un partito, almeno insomma, non sempre, in alcuni casi sì, ma non così sempre come la RAI. Sentiamo Daniele da Roma come la pensa. Prego Daniele. Sì, pronto? Sì, dimmi. Qui un attimo solo, eccomi qua. Allora, senta, io ho sentito quello che avete detto, e effettivamente è la cosa giusta, perfetta. L'unica cosa è che però tutti i problemi vanno affrontati gradatamente. Quello è il secondo grado. Il primo grado è quello di vedere esattamente qual è il problema dei 150 milioni di euro. I vari dipendenti RAI sarebbero ben disposti di poterli dare, però fino adesso sono stati scremati tutti quanti gli stipendi dei dipendenti in basso, quelli bravo, dirigenti, bravo. I quali non dicono, loro non dicono, perché su questo guarda, io mi batto da tempo, devo dire che anche i soldi alle produzioni e così via, ma però ne sappiamo troppo poco, purtroppo, Daniele. La trasparenza manca. Comunque, io ringrazio Paolo Conti, continuate su Radio 24. Appuntamento con me a domani.